Abba Monte, Barraco, Bellezza, Borrelli all'esame. Abba Monte si fece pallida. Barraco si segnò rapidamente. Bellezza prese il suo ventaglio con un'aria convulsa. Borrelli dette un bacio a Casale e si rizzò risolutamente gli occhiali sul naso. Tutte e quattro si avviarono senza parlarsi. Sottovoce Isabella Diaz disse loro mentre passavano: Dio vi assista. Le altre non dissero nulla, già tremanti, senza fiato non ricominciarono a parlare che dopo 10 minuti. Casale, avendo perduto anche gli incoraggiamenti di Borrelli, si era seduta sullo sporto della finestra e diceva fra sé delle Avemarie. Carolina Mazza raccontava la disperazione di Nobilone, la povera Nobilone che era stata riprovata all'esame scritto e non era passata all'esame orale. Un anno perduto, tante speranze svanite. E che farà la povera Nobilone? Chiese Donna Rumma. Che deve fare? È stata riprovata in 4 materie. Come può prepararsi in 3 mesi alla riparazione? Dovrebbe pagare dei maestri? Poveretta, ha così pochi quattrini. Potrebbe far l'esame di telegrafista, suggerì De Feo. Giusto. 3 mesi di scuola pagando 20 franchi il mese, libri, maestri, 4 posti e 35 concorrenti. È vero, mormorarono due o tre. O dovrebbe andarsene agli asili, soggiunse Mercanti. Sì, 50 lire il mese, e la ritenuta, e la salute rimessa. È vero, ripetevano le altre a bassa voce, e ognuna in sé provava uno scoramento profondo. Ognuna pensava a quello che le resterebbe da fare essendo riprovata. E all'idea morale dello scorno che faceva salire il rossore al loro volto si sovrapponeva quella materiale più urgente del bisogno che stringeva loro il cuore. Ognuna pensava a quel lungo sacrificio di 3 anni, andando a letto tardi per studiare, levandosi presto quando si aveva voglia di dormire, uscendo con la pioggia, col freddo, con l'umido, senza ombrello, senza mantello, con le scarpe sottili, con la tosse, mangiando poco, risicando il soldo per comprare i libri e rinunziando a un cappello per avere una scatola di compassi. Che schianto la riprovazione! Che fare dopo? Dove trovare i quattrini, la pazienza, la volontà, la forza per continuare quella vita un altro anno? Come ricominciare? Quell'ansietà degli esami, per il telegrafo, per gli asili. 40 minuti erano passati. La bidella rosa comparve sotto la porta e lesse altri 4 nomi. Casale, De Donato, De Feo, De Sanctis, all'esame. Ma l'uscita delle altre quattro fu poco osservata. Nessuna badò alla titubanza malinconica di Anina Casale, alla rassegnazione muta di De Feo, alla falsa aria di sicurezza della De Donato che aveva una paura immensa e all'aria di povera bestia che va al macello di De Sanctis. Ritornavano quelle già esaminate, l'interesse era intorno a loro, furono subito circondate. Abba Monte nel corridoio aveva incontrato il suo vecchio padre, un ufficiale pensionato, e si era buttata nelle sue braccia. Ora passeggiavano su e giù, il padre appoggiando amorosamente la mano sulla spalla e lei con l'aria beata, rossa tutta nella faccia, con gli occhi fuori dalla testa. Le altre erano in classe, Barraco pallidissima con una macchia rossa sulla guancia destra come la striatura di uno schiaffo, Borrelli l'aria gloriosa, una treccia mezza disfatta e la cravatta arrivata sulla spalla, Bellezza rossa rossa con l'aria indecisa. E attorno fiottavano le domande, tutte volevano sapere se i professori erano burberi, se i problemi erano facili, se chiedevano quello che era nel programma, se il direttore era nervoso, se i 10 minuti di esame presso ogni esaminatore passavano presto, se la geografia si diceva sulla carta. Niente, niente, narrava convulsivamente Barraco. La geografia è nulla, figuratevi. Mi hanno chiesto i fiumi della Spagna. Chi non li sa? De Vincentis al solito è un po' collerico, ma si vede che non vuole far sfigurare la scuola. Il male è la pedagogia, soggiunse Borrelli. Estrada ci ha fatto un bel servizio con le sue poesie. Invece l'esaminatore è severissimo, vi giuro, che se non improvvisavo un poco, così a casaccio, ero riprovata. Scusate, ci ha mai spiegato che cos'era la riflessione ontologica? No, mai, mai, risposero tre o quattro guardandosi fra loro. Questo Estrada ci ha rovinate. Un consiglio vi do, continua Barraco la nevrotica. Non rispondete mai precipitosamente. È male. L'esaminatore vi guarda con una brutta faccia, vi domanda troppe cose e il tempo non passa mai. Io ho risposto troppo presto. Ha dovuto dire tutto il sistema di Linneo, non finiva mai. Vi è anche dell'intoppo alla letteratura italiana. Me lo immaginavo, non ve lo avevo sempre detto che Radente era una bestia? Esclamò Caterina Borrelli. Figuratevi che vogliono sapere tutta la storia della letteratura italiana che non abbiamo mai studiato. Oh, quel Radente, ma perché non lo destituiscono? Non vi preoccupate della storia sacra e della morale, le domande sono facili, mormorò Barraco. Non vi preoccupate più di nulla, l'esame è meno difficile di quel che pare, esclamò allegramente Borrelli. Io dovrei andarmene, ma voglio aspettare l'esito di Annina Casale e di due o tre altre. Ora scrivo un biglietto a mamma per dirle che tutto è andato bene. Oh, povera mamma, questo la consolerà. E la voce le si intenerì fino al pianto. La Barraco, che era presso a lei, si fece livida, tremò, strinse i denti, disse con voce straziante: Oh, mamma, mamma! Poi si arrovesciò sopra un banco e svenne. Una crisi nervosa scongiurata per 3 ore era venuta a quel nome di mamma. E la Barraco aveva riveduto come in un sogno truce il suicidio di sua madre. La misera donna che è diventata vedova e povera per la morte di suo marito, avendo 5 tra figliuole e figlioletti che non sapeva come far vivere, si era buttata giù sul selciato dal balconcino di un ignobile albergo in un vicolo dei guantai. Nella convulsione, di sotto le palpebre abbassate, sulle guance della Barraco scendevano grosse lacrime e le compagne intorno non sapevano far altro, dopo averle aperto il vestito, che farle odorare una rosa che portava sul petto la Mercanti. L'avevano approvata la Barraco, ma non era possibile essere mai felice, mai più, con quella tetra visione della madre sfracellata giù nella via. Tutte parlavano sottovoce della tragedia. Borrelli bagnava le tempie di Barraco con un fazzoletto molle di acqua e Bellezza non sorrideva, non piangeva, aveva sempre il suo contegno di persona dubbiosa e dentro di sé sospettava forte di aver sbagliato tutta la dimostrazione di aritmetica. Non osava domandare a Checchina Vetromile se bastava il metodo di falsa supposizione a risolvere quel problema di regola di società, non osava temendo di avere la certezza del suo errore. Deste, Diaz, Donnarumma e Fiorillo, chiamò la bidella. Tutte si rivolsero a veder passare Isabella Diaz. In verità era così laida, col suo viso senza ciglia e senza sopracciglia, di un pallore giallastro e come untuoso, con quella vecchia parrucca rossastra, con quel cuffiotto di merletto di cotone dai nastri verde pisello, che faceva nausea, poveretta, e con lei Luisetta d'Este era così carina nella sua bellezzina piccoletta, Carmela Fiorillo era così simpatica, coi suoi occhi andalusi e le sue labbra vivide come il fiore e piacente nella sua robustezza, che Isabella Diaz parve ancora più brutta, più meschina e più ripugnante in quel contrasto. Ora Annina Casale era ritornata dall'esame, e De Sanctis e De Feo e De Donato. Le notizie erano sempre più contraddittorie. De Feo si era imbrogliata giusto alla storia sacra, una materia così facile. Casale aveva fatto sforzi di valore, ma giusto alla storia non aveva potuto ricordare il nome della battaglia a cui aveva preso parte Dante Alighieri. Campaldino, stupida, Campaldino! Strillava Borrelli. De Donato se ne stava tranquilla. Sapeva di aver risposto mediocremente, ma sapeva anche di essere stata approvata a stento in tutte le materie. Che fanno i punti? Sono una sciocca questione di amor proprio. Basta avere un diploma. In quanto a De Sanctis, il fenomeno di trasformazione era completo. Con le guance accaldate e gli occhi lucenti, ella narrava che aveva risposto benissimo a tutti e le compagne, sapendo la sua inettezza, si guardavano scettiche senza che ella capisse. Figuratevi, diceva lei esaltata, che il professore di scienze fisiche mi domanda qual è l'instrumento con cui si misurano i gradi di calore della temperatura. Il barometro, rispondo io. E chi lo ha inventato? Lo hanno inventato in molti, il signor Celsius, il Torricelli, il Riemur. E gliel'ho anche descritto. Benissimo. Alla pedagogia lo stesso. Qual è la legge fondamentale dell'istruzione? Vi sono varie leggi. La legge psicologica le riassume tutte e il signor Froebel ne ha fatto lui l'applicazione ai metodi di lettura. Bene, la storia. La storia, la battaglia di Gavinana e Pier Capponi che esclama contro Malatesta Baglioni, tu uccidi un uomo morto. Alla geografia, gli Appennini, sì signore, cominciano dal Colle di Tende e finiscono in Calabria. E io che mi spaventavo tanto. L'esame è una sciocchezza, andatevi di cuor contento. E le altre non osavano dirle per non disilluderla quale strano pasticcio ella aveva fatto di termometro e di barometro, che imbroglio nella pedagogia, nella storia, nella geografia ella aveva impastato. E l'ascoltavano con un sorriso pietoso, stravolgere tutto, chiacchierare come un'oca stordita e chiassosa. L'esaltazione di quelle che ancora dovevano fare l'esame cresceva sempre più a tanti spettacoli, a tante notizie, a tante contraddizioni, e mentre il calore di quelle che avevano già finito si allargava in un'allegrezza nervosa, il pallore delle esaminande e il loro silenzio aumentava. Oramai non pensavano più a ripassare quel tal brano ancora oscuro della storia, non si curavano più di farsi dire da Checchina Vetromile come agisce la luce sulle piante. Tutto era inutile, oramai tutto era deciso, non avrebbero mai più imparato nulla. Sapevano quel che sapevano, sarà quel che sarà, una specie di sfiducia di tutte le cose vinceva quelle anime scosse da un turbamento profondo. E come il tempo passava, la giornata fatale si complicava sempre più di avvenimenti. Vi era il caso di Luisetta d'Este, la bellina che non aveva mai studiato niente salvo qualcosellina, un po' qui, un po' là, a spizzico, tutta intenta alla civetteria e agli amoretti, e che aveva avuto la fortuna di sentirsi domandare giusto le pochissime cose che sapeva e di essere approvata, come se fosse stata la più zelante, la più studiosa fra le alunne. E tornando ridacchiava la sfacciatella, si burlava degli esami e degli esaminatori e del diploma e di tutte le cose scolastiche noiose e odiose. Il che contristava le buone fanciulle che avevano perduto la salute a studiare. Vi era il caso della Scapolatiello che giusto la sera prima aveva sentito in casa l'annunzio delle nozze di sua sorella con quel giovinotto che la adorava silenziosamente. Si sposavano in settembre. Non c'era più rimedio e questa notizia le aveva sconvolto talmente la testa che era andata all'esame come una trasognata senza intendere nulla di quello che le chiedevano, trasalendo ogni tanto dolorosamente e pigliando una riprovazione coi fiocchi. In un angolo della terza classe, la infelice, senza piangere, senza respirare, andava ripetendo che le restava solo la morte. Vi era il caso delle due sorelle Santaniello, l'una già tisica che quell'anno di lavoro aveva disfatte e a cui gli esaminatori avevano dato il diploma quasi per pietà, guardandola con commiserazione e parlando sottovoce fra loro, mentre quella restava lì, tutta imbarazzata, tutta vergognosa della sua malattia. E l'altra, anemica, timida, intelligentissima, senza coraggio, a cui gli esaminatori avevano dovuto strappare le parole ad una con sforzi immensi, tanta era la confusione e il timore della poverina. E vi era il caso di Giustina Marangiò, la quale, giunta innanzi alla lavagna dove Fracacreta, prima di lei, aveva trovato la superficie della piramide, aveva fatto osservare al professore un errore nella dimostrazione a cui egli non aveva badato. Aveva rifatta lei vittoriosamente questa dimostrazione per causa sua Fracacreta. Aveva preso 5 in geometria. Poi, tutte quante, felici o infelici, pensierose o allegre, guardandosi in cagnesco, serbandosi rancore, invidiandosi, amandosi, avevano aspettato le 3 per leggere la sentenza. Il risultato ufficiale dell'esame affisso nel cortile. Tutte più o meno lo sapevano questo risultato, ma un'ultima curiosità le mordeva. E De Sanctis restò stupefatta avendo preso dei 5, dei 4, persino degli 0 in tutte le materie. E la meraviglia di tutte fu che Isabella Diaz, avendo avuto il massimo dei punti, era riuscita la prima. 4. 3 anni dopo, da un taccuino di note, di memorie e di ricordi. La Judicone ha fatto il concorso, è riuscita fra le prime e ha insegnato per un anno nella scuola elementare del quartiere Porto, in prima inferiore. Dopo ha subito sposato un impiegato del Banco di Napoli e in 2 anni ha avuto 2 figlioli. Si è molto ingrassata. Emilia Scoppa ha fatto il concorso per maestra, non è riuscita. Ha concorso ai telegrafi, neppure è riuscita. Si è allogata come commessa nei magazzini di Miccio, al riparto delle confezioni e quando vede le sue antiche compagne di scuola si vergogna e si nasconde. La Pessenda, non potendo aspettare il concorso, ha subito accettato il posto di maestra rurale, comune di Olevano, nel Cilento, con 500 franchi l'anno di retribuzione. Nel grave freddo di 2 anni fa, Non aveva potuto ottenere un'indennità per il fuoco in casa dopo aver invano scritto più volte all'ispettore scolastico e al provveditore per qualche sussidio. La vecchia madre le si è ammalata di bronchite e le è morta. Nell'anno seguente il comune di Olevano aveva dovuto sopportare qualche spesa maggiore nel bilancio, ha diminuito di 100 lire la retribuzione della maestra elementare. La Pessenda è rimasta, contentandosi di quello in mancanza di meglio, visto che non vacavano altri posti di maestra rurale e che i concorsi in città si facevano sempre più difficili. Nell'estate ultima, la Pessenda non ha usufruito di vacanze, non avendo forse mezzi per recarsi in Piemonte. Nell'agosto è stata presa dal tifo petecchiale, che è stato mal curato dal medico condotto, essendosi nel paese diffusa la voce che la sua malattia era contagiosa. E lei è stata abbandonata da tutti, anche dalla contadina che veniva a fare i grossi servizi. Quindi non si può bene accertare il giorno della sua morte, avendola poi ritrovata quasi nera sul letto in una stanza senza mobilio, con le finestre aperte e un lume spento per terra, in un angolo. Caterina Borrelli e Annina Casale non hanno fatto il concorso per maestre, hanno concorso ai telegrafi, sono riuscite, vi sono da 3 anni. La Borrelli è un'impiegata pessima, la Casale invece eccellente nel lavoro e nella condotta. Cleofe Santaniello ha fatto il concorso, è riuscita fra le ultime e fa la maestra nella scuola elementare di Monte Calvario, nella prima classe inferiore. Ella è senza forza morale, senza nessuna energia, le sue alunne la fanno dannare e la fanno sempre sfigurare agli esami. Di più, è sempre malaticcia, manca spesso nell'inverno. Un giorno ha avuto un deliquio in classe. La direttrice della sua scuola e i suoi superiori sono malcontenti di lei. Hanno dovuto darle un aiutante per un mese a sue spese. È sopportata per la sua dolcezza e per la miseria in cui versa. Lidia Santaniello non ha fatto il concorso, essendo malata di bronchite. Guaritasi, le hanno concesso il posto di maestra d'asilo nel quartiere Mercato con l'annua retribuzione di lire 600. Le alunne e gli alunni erano 134. Ella ha chiesto invano un aiuto nella sua sezione, non potendo reggere a quell'immensa fatica. La continua vociferazione, il dover insegnare le canzoncine a 134 piccini, cantando ella stessa, il dover loro insegnare la ginnastica, gesticolando, battendo i piedi in terra, battendo palma a palma, il doverli condurre in ricreazione, in un grande cortile umido, girando per un'ora intorno a un pozzo, hanno finito di demolire una salute già minata. Ella ha continuato ad andare in scuola malgrado la sua infermità, non avendo il coraggio di abbandonare le creaturine che amava moltissimo, contestandosi di insegnar loro a voce fiochissima, senza potersi levare dal suo posto, le brevi canzoni infantili. E spesso i piccini e le piccine sono stati quieti tutta una giornata solo perché la loro maestra le aveva pregate di star tranquilli, sentendosi molto male, poiché quelle creaturine l'amavano moltissimo. Quando si è dovuta mettere a letto, non potendone più, alla sua povera casa è stato un viavai di bimbe e bimbi che venivano zitte zitte a visitare la maestra. Ella, non potendo parlar loro perché questo la stancava, li faceva sedere attorno al suo letto e li guardava sorridendo. Essi tacevano per non disturbarla. Quando è morta, 6 mesi fa, il municipio ha fatto le spese delle esequie, i bimbi si sono quotati d'un soldo per portarle dei fiori e hanno seguito tutti il feretro, due per due, tenendosi per mano, come quando ella li conduceva in ricreazione attorno al pozzo e hanno cantato le canzoncine che ella aveva loro insegnato con la sua voce consumata. La De Donato, non arrischiandosi a fare il concorso, è andata a dirigere la scuola elementare di Avellino. Dà qualche lezione di canto alle ragazze più agiate del paese e canta ella stessa le romanze di Tito Mattei. Non tornò e, non è vero, alla Filarmonica Avellinese. Carmela Fiorillo non ha fatto il concorso. È stata per un anno maestra rurale a Gragnano, ma essendosi innamorato di lei il figliuolo di un ricco fabbricante di paste, ha dovuto partire dal paese e recarsi a far la maestra in un villaggio dell'Alta Savoia, con la retribuzione di 400 lire annue. Non essendovi casa nel villaggio dove era la scuola, ella abitava al villaggio vicino e doveva fare 4 miglia ogni mattina e ogni sera per andare e venire. Nell'ultimo inverno, un giorno verso le 3, ritornandosene a casa, è stata sorpresa da una tempesta di neve e sia il freddo sia la stanchezza, sia il difetto di cibo perché non aveva mangiato dal giorno prima. Ella è caduta sulla via e si è lasciata morire per debolezza, per assideramento. Gli alpigiani l'hanno raccolta 2 giorni dopo. Il municipio le ha decretato una piccola lapide di marmo, visto il suo zelo e l'amore alle sue umili fatiche. Giustina Marangiò ha fatto il concorso, è riuscita una delle prime, insegna nella scuola elementare del quartiere Chiaia nella 3ª classe. Ha ottenuto finanche che la direttrice della scuola fosse traslocata a Portici, assumendo lei la direzione con una indennità. Lei che inventò un nuovo metodo di punizione delle bambine, metter loro sul capo lo strofinaccio sudicio di inchiostro, di polvere di gesso con cui si puliscono i banchi o le lavagne. Ed è anche lei che ha inventato un nuovo metodo per non far tardare le alunne alla scuola. Si mette alla porta con l'orologio in mano e a chiunque arriva dopo le 8 sequestra la colazione implacabilmente. Molte bimbe hanno disertato dopo questo. Bellezza, Fracca Creta e Iaquinangelo hanno ripetuto il 3º anno di corso. Fracca Creta è chiusa nel convento delle monache a Sant'Agostino alla Zecca e vi fa la maestra. Nessuna notizia di Bellezza e di Iaquinangelo. De Sanctis ripete per la 3ª volta il 3º anno di corso. Teresina Ponzio, l'innamorata del sole, ha fatto il concorso, è riuscita, ha insegnato nella scuola del quartiere Vicaria in prima superiore con risultati mediocri, per disattenzione. Nel medesimo tempo ha pubblicato delle poesie amorose in un giornale letterario intitolato L'Alcione e una novella sentimentale intitolata Amor sprezzato in un opuscolo dell'editore Carluccio di Napoli con la dedica A te che non devi amarmi. 2 volte è stata chiamata dal provveditore e biasimata per queste sue pubblicazioni esaltate, ma nulla si è ottenuto. Un giorno, mentre l'ispettore scolastico visitava la sua classe, esaminando le alunne e trovandole molto indietro nello studio, come trascuratissime nella condotta, la vide nascondere in fretta un foglio bianco sotto registro di presenza. Richiesta di consegnarlo, si è turbata, ha pianto, ha dato il foglio. Era una lettera d'amore a un noto uomo napoletano ammogliato e con prole. E sebbene si trattasse di un amore non corrisposto, pure esso denotava nella Ponzio un colpevole traviamento, incompatibile con le sue delicate funzioni di educatrice. Ella è stata destituita, perdute le sue tracce. Luisetta d'Este, entrata come istitutrice in una famiglia ricca, ne sposerà fra giorni un vecchio parente che ha per lei diseredato 4 nipoti, sempre carina. Mazza recita in una compagnia di terz'ordine nei teatri di provincia. Era ad Albenga ultimamente. Mercanti insegna nel ritiro di suor Orsola Benincasa, sua matrigna e sua cognata avendo fatto di tutto per cacciarla di casa. Nelle giornate di vacanza fa dei fiori artificiali. È stata premiata all'ultima esposizione di Milano. La Barraco non ha potuto aspettare l'esito del concorso, è andata come maestra in un comune di Calabria Citra. Pare che il clima un po' rigido nell'inverno le avesse danneggiato molto i nervi. Ha fatto 2 o 3 volte la domanda per essere traslocata, ma non ha potuto ottenere nulla. Ella ha scritto delle lunghe lettere all'ispettore, al provveditore, al ministro, scongiurando tutti quanti che la togliessero da quel tormento, ma in tutto quello che scriveva si notava un principio di forte eccitamento nervoso. Quando l'ispettore è capitato nel suo villaggio, ella gli si è buttata ai piedi, piangendo, convulsa perché l'aiutasse in qualche modo a uscire da quell'inferno. L'ispettore, commosso, ha promesso di adoperarsi per lei. Dopo, pare l'abbia dimenticata. L'anno scorso di marzo, ella ha comperato in 3 volte dallo speziale 3 paste di cantare di pervescicanti, col pretesto di infermità, e le ha mangiate tutte e 3. Ha sofferto 2 giorni di spasimi atroci, si è pentita di quel suicidio, ha invocato le sorelle, i fratelli, le amiche, ma non è stato possibile di salvarla. Dopo morta hanno ritrovato il suo giornale. Non avendo neppure a chi scrivere le sue pene, ella si dirigeva a un essere immaginario. Il giornale è stato mandato alla sorella più grande. Esso è straziante. Maria Valente, riuscita al concorso, fa la maestra nella scuola elementare del quartiere Avvocata, in prima superiore, con buon risultato, ma senza aver avuto ancora avanzamento, causa la mancanza di appoggi. Abba Monte, riuscita al concorso, fa la maestra elementare nel Regio Educandato dei Miracoli, nulla da dire. Checchina Vetromile, riuscita al concorso, ha fatto la maestra per 1 anno con lode, Poi ha sposato un negoziante di calzoleria che ha una fabbrica nazionale di scarpe e ne manda anche all'estero. Chechina tiene i conti, tiene la corrispondenza e sorveglia la vendita. Quando le sue compagne di scuola vanno a comprare le scarpe da lei, fa loro risparmiare qualche cosa e annoda lei stessa il pacchetto con un nastro azzurro. La Scapolatiello non ha fatto concorso, non ha ripetuto il terzo corso, non ha fatto esame di riparazione, non ha preso neppure il posto in qualche asilo. Nel settembre sua sorella si è maritata ed è rimasta in casa. Essendo povera gente, non sono andati a viaggiare. Gli sposi hanno fatto la luna di miele in casa. La Scapolatiello ha manifestato l'intenzione di farsi suora di carità, ma le mancavano i quattrini per la dote. Un giorno, che dopo 3 o 4 tentativi inutili per riuscire a qualche cosa, ella stava sul balcone al quarto piano con sua sorella e suo cognato, ha detto loro: «Vado un momento sul terrazzo». È salita al quinto piano, sul terrazzo, ha scritto sopra un pezzettino di carta «Vi voglio tanto bene, non mi dimenticate», ha arrotolato questo fogliettino di carta, ha chiamato da sopra sua sorella, le ha sorriso, le ha mandato un bacio, ha buttato prima il fogliolino nel balcone, poi si è buttata giù lei nella strada. La sorella e il cognato se la son vista precipitare innanzi come un fagotto di cenci. Deve essere morta prima di giungere in terra per la congestione cerebrale. Isabella Diaz, la prima riuscita nel concorso, passata subito a insegnare in quarta classe alla scuola del Gesù. Risultati eccezionali, semplificato il metodo di sillabazione, modificato l'insegnamento della geografia in meglio, fondato un giardino d'infanzia a Portici e un asilo a Pozzuoli, riordinate le scuole di Sarno. Sempre orrenda, prima medaglia d'oro all'ultima esposizione pedagogica, direttrice della scuola più popolosa di Napoli. Da lei parte la prima abolizione dei vecchi metodi punitivi.